gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. Cari amici e care amiche delle onde corte, benvenuti all'interno di I Love Italy, i 15 minuti in lingua italiana della WRMI, Radio Miami International. In apertura ringrazio l'amico Marco, che è lui il musicista che ha composto la sigla. Vorrei ricordarlo perché solitamente con la storia dei diritti d'autore, le varie major discografiche, appena magari si pubblica un podcast, viene subito eliminato per violazione dei diritti d'autore. Faremo anche una puntata su questo, però ribadisco che la sigla è stata fatta da un mio caro amico, musicista, compositore, artista e cantautore, e non è mai stata pubblicata, quindi non è né su supporto di CD e neanche è stata pubblicata nelle varie major discografiche. Lo dico per gli amici della SCF e della CI, che solitamente quando si pubblica un podcast vanno a prendere il pelo nell'uovo. Quindi questa è la sigla personalizzata di I Love Italy, rifatta dal mio amico Marco Arensi. Premesso questo, i contatti. I Love Italy è ospitato gentilmente dalla WRMI, WRMI, e potete interagire con la trasmissione in diversi modi, visitando il nostro sito voiceofitaly.it oppure il mio sito personale andreamangiarotti.com, nonché il sito dell'emittente che ci ospita, wrmi.net. Potete scriverci in diversi modi, o utilizzando la mia mail andrea@mangiarotti.org, che comunque trovate sui siti precedentemente menzionati. Con questa mail potete scriverci per richieste, considerazioni o semplicemente per inviarci un rapporto di ricezione, per farci sapere insomma come si sente la nostra trasmissione, come si sente Radio Miami nel vostro stato, perché sappiamo insomma che ci sentite nelle zone più lontane possibili, tipo la Cina, il Giappone, chissà mai magari anche l'Australia. E così via. Frequenza di trasmissione, siete sui kHz 7730, da qualche mese abbiamo questa nuova frequenza, pari a 1,41 m. Quindi siamo qua, siamo con voi all'interno di I Love Italy. Ora facciamo un piccolo break dove vi faccio sentire il jinglino in inglese che ci ricorda il nostro nuovo sito, e poi introdurremo il primo argomento di quest'oggi. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Quindi se volete richiedere una cartolina QSL, ricordate il sito appunto voiceofitaly.it. Bene, partiamo alla grande con un po' di carne al fuoco. Nelle scorse settimane, nel mese scorso, c'è stata la cosiddetta bagarre delle elezioni italiane per quanto concerne alcuni comuni dove si è votato proprio per il sindaco, nonché anche il classico referendum che ovviamente non ha raggiunto il quorum e quindi non è valido, diciamo così. Ma questo si sapeva, perché purtroppo in Italia la macchina referendaria è stata molto molto sfruttata. Inizialmente Pannella e i radicali l'avevano proposto e c'è stata un'affluenza e un consenso veramente massiccio. Poi con gli anni gli italiani si sono definitivamente disinfezionati, sono un pochino annoiati, insomma, di questi referendum. Però la politica odierna, come la definisco io, la politica dei faccioni di questi romani, no? La politica nazionale è sempre fatta da politici al top. Se voi vedete i principali partiti oppure i principali leader, tutti hanno ragione e nessuno ha mai torto. Fateci caso. Sempre risulta che ha perso, e no, però io ho vinto, è così. Questa è la politica romana del 2022. C'è stato un caso molto carino a Piacenza a proposito delle elezioni del sindaco, dove il candidato sindaco, appunto Katia Tarasconi, affrontava il sindaco uscente, la signora Barbieri. Terminate le elezioni, ha vinto la sua avversaria e il sindaco uscente, sapete cosa ha fatto? Ha abbracciato il sindaco nuovo. Questo è stato veramente un gesto che difficilmente oggi nella politica cosiddetta romana che conta si vede, anzi lì si insultano sempre di più, purtroppo questa è l'Italia. Ma se torniamo indietro nel tempo, ci sono tanti episodi, no? di una politica, direi, fatta molto bene, molto umile, a misura d'uomo. Quest'oggi a I Love Italy ve ne racconto uno, un fatto veramente accaduto. Il titolo che ho trovato su un articolo molto bello a firma Domenico Caridi, quando Almirante si recò ai funerali di Berlinguer. Quindi pensate, Almirante, ex appunto fascista, tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, che diciamo così nell'anima riscopriva non completamente però l'ideologia del fascismo, e invece Berlinguer da sempre comunista. Quindi pensate, quando Almirante si recò ai funerali di Berlinguer. L'articolo è tratto dal quarto numero, primo mese, de Il Caffè dell'ottobre del 2020. Lo andiamo a leggere. 13 giugno 1984, una giornata che rimarrà indelebile nella coscienza di molti, non soltanto dei cultori della politica. Fu il giorno in cui si celebrano i funerali di una delle figure più influenti del Novecento, il segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer. Il corteo con la bara sfila dalla sede del partito in via Bottega Oscure a piazza San Giovanni, siamo a Roma. Il tutto accompagnato dalla presenza di quasi 1,5 milioni di persone per esprimere ammirazione, ma anche amore nei confronti dell'uomo che aveva guidato il PC durante gli anni difficili degli anni 70, mentre la gente era in fila per entrare alla Camera Ardente, si intravede all'improvviso il volto di una persona molto nota all'epoca, stempiato, occhi chiari, baffi inconfondibili. Era proprio lui. Giorgio Almirante, ma come, voi vi domanderete, il segretario del Movimento Sociale Italiano ai funerali di Berlinguer, un'icona del comunismo nostrano? Ebbene sì, ma torniamo un attimo indietro, all'11 giugno, quando Almirante seppe della scomparsa di Berlinguer, e Almirante ebbe una reazione alquanto strana, ma nel contempo significativa. Quando gli viene comunicato della morte di Berlinguer, leader indiscusso del Partito Comunista, quindi completamente opposto da lui, che poteva anche odiare, Almirante si chiuse in una stanza, spense la luce, rimanendo completamente al buio, si mise un plaid in testa e, pensate un po', iniziò a piangere. Fu una notizia che lo scosse profondamente sotto ogni aspetto. Nell'arco di tempo compreso tra la sera dell'11 e la mattina del 13, Almirante ebbe modo di prendere un'importante decisione, ossia quella di recarsi ai funerali dell'avversario di una vita che si sarebbe tenuto quel giorno stesso. Così Giorgio Almirante si alza dal letto, andò in cucina, laddove sua moglie, donna Assunta, stava preparando il caffè, qualche istante di silenzio, e Almirante, rivolgendosi alla moglie, gli disse: ho deciso, vado ai funerali. Ad attendere Almirante fuori dalla sua abitazione vi era un'auto che lo avrebbe scortato fino a via delle Botteghe Oscure. Sebbene fossero pochi anni che si conoscevano, e appunto quindi due partiti completamente differenti. Il leader del MIS era solo, e si mise in fila, pensate, attraverso proprio, si mise in fila con le altre persone per aspettare il suo turno per far visita a Berlinguer. Viene raggiunto immediatamente da Giancarlo Paglietta e Nilde Iotti, esponenti storici del Partito Comunista, che lo accompagnarono all'interno della Camera Ardente. Pensate un po', non l'hanno cacciato, l'hanno accompagnato all'interno della Camera Ardente per rendere omaggio al suo avversario politico. Una volta dentro, Almirante, con sguardo deciso ma affranto al tempo stesso, si inchinò leggermente dinanzi alla salma facendosi segno della croce. Poi uscì dalla Camera Ardente, fu ricoperto da qualche fischio di qualche stupido, diciamo così, e rivolgendosi al regista Magni disse: «Non sono venuto per farmi pubblicità, ma per salutare un uomo estremamente onesto». Infatti, sebbene Almirante e Berlinguer avevano idee politiche diametralmente opposte, pensate, un comunista e un fascista, avevano sempre dimostrato una grande onestà intellettuale, che aveva trovato spazio in diversi incontri, la maggior parte dei quali, immaginate, erano segreti, perché erano gli anni di piombo degli anni 70, il terrorismo nero, il terrorismo rosso, e loro si incontravano furtivamente e avevano questa simpatia reciproca, potremmo definirla così. Questo rispetto reciproco lo si evinse anche dal fatto che, in occasione della morte di Almirante, quindi siamo nel 1988, Paglietta e Nilde Iotti si recarono in via della Scrofa, sede del Movimento Sociale, per ricambiare l'omaggio che il politico romagnolo aveva reso pochi anni prima al loro leader. Quest'oggi vi abbiamo raccontato questo episodio bellissimo della politica italiana. Oggi sempre più urlata, gridata, si dicono le peggio cose, hanno vinto tutti. Questo è un esempio di umiltà che dovremmo, secondo me, portare ai posteri, quindi ve l'ho raccontato. È un lato bellissimo, a mio avviso, della nostra nazione, della nostra Italia. Quindi vi abbiamo raccontato questa bellissima vicenda e spero che possa essere d'esempio a tutti noi per essere uomini migliori, cercando di non odiare nessuno, ma ammirando i nostri avversari. Perché no? È stato un gesto meraviglioso. I Love Italy termina qua, io vi ringrazio per avermi ascoltato sulla WRMI, a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere in onda anche questo mese sulle onde corte, a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Un saluto dall'Andreone, ora le trasmissioni continuano con i programmi di Radio Miami International. Ciao ciao, alla prossima, ciao, ciao, grazie. May I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. www.andreamongiarotti.com. I love Italy. I love Italy, con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy.